Dolcezze, capitolo ventesimo di Mirice. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per ulteriori informazioni o per sapere come diventare volontario, visitate il sito LibriVox.org. Registrato da Sergio Baldelli a Città di Castello, dicembre 2007. Mirice, di Giovanni Pascoli. Capitolo ventesimo, dolcezze. Primo, benedizione. È la sera. Piano piano passa il prete paziente, salutando della mano ciò che vede e ciò che sente. Tutti e tutto il buon piovano benedice santamente, anche l'olio, là nel grano, qua nei fiori anche il serpente. Ogni ramo, ogni uccellino, sì del bosco e sì del tetto nel passare ha benedetto. Anche il falco, anche il falchetto nero in mezzo al ciel turchino, anche il corvo, anche il becchino, poverino, che lassù nel cimitero raspa raspa il giorno intero. Secondo, con gli angioli. Erano in fiore i lilla e l'ulivelle, ella cuciva l'abito di sposa, né l'aria ancora apria bocce di stelle, né s'era chiusa foglia di mimosa. Quand'ella rise, rise o rondinelle nere improvvisa, ma con chi? Di cosa? Rise, così con gli angioli, con quelle nuvole d'oro, nuvole di rosa. Terzo, il mendico. Presso il rudere un pezzente cena tra le due fontane. Pane alterna egli col pane, volti gli occhi all'occidente. Fa un incanto nella mente, carne è fatto, ecco l'un pane. Tra il gracchiare delle rane sciala il mago sapiente. Sorge e beve alle due fonti. Chiara beve acqua nell'una, ma nell'altra un dolce vino. Giace e guarda. Sopra i monti sparge il lume della luna. Getta l'arti al ciel turchino, baldacchino, di mirabile lavoro, che trapunta a stelle d'oro. Quarto, mare. M'affaccio alla finestra e vedo il mare. Vanno le stelle, tremolano l'onde. Vedo stelle passare, onde passare. Un guizzo chiama, un palpito risponde. Ecco, sospira l'acqua, alita il vento. Sul mare è apparso un bel ponte d'argento. Ponte gettato sui laghi sereni. Per chi dunque sei fatto? E dove meni? Quinto, Annanna. Come un rombo d'arnia suona tra il cricchiar della mortella. Nonna, è detta la corona. Nonna, or di la tua novella. Ella dice, e l'è pur buona, la più lunga, la più bella. Sola, udio, bubbola e tuona, sola va la reginella. Ecco un lume, una stellina, ma lontanamente appare. Via, conviene andare, andare. Va e va. Ma ciondolare già comincia una testina, due sonnecchiano, cammina che cammina e le son tutte arrivate, sono in collo delle fate. Sesto, il piccolo aratore. Scrive, la nonna ammira, ara bel bello, guida l'aratro con la mano lenta. Semina col suo piccolo marrello, il campo è bianco, nera la sementa. D'inverno egli ara. La sementa nera d'inverno spunta, sfronza a primavera. Fiorisce, ed ecco il primo tuon di marzo, rotola in aria, e il serpe esce dal balzo. Settimo, il piccolo mietitore. Legge, la nonna ammira. Ecco il campetto bianco di grano nero in lunghe righe. Esso tutt'occhi, con il suo falcetto, a una miete quelle spighe. Miete, e le spighe restano pur quelle. Miete, e lega coi denti le mannelle. E le mannelle di tra i denti suoi parlano, come noi, meglio di noi. Ottavo, notte. Siedon fanciulle ad arcolai ronzanti, e la lucerna i biondi capi indora. I biondi capi, i neri occhi stellanti, volgono la finestra ad ora Attendon esse a cavalieri erranti che varcano la tenebra sonora? Parlan d'amore, di cortesie, di incanti. così parlando aspettano l'aurora. Fine del capitolo 20.